falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi raccontiamo una storia che ci aiuta a parlare di un argomento che io conosco bene, insomma, che ho dibattuto spesso: la pena di morte. Un argomento spinoso, c'è ancora chi è favorevole, c'è chi è contrario, chi non ha le idee chiare, chi in qualche modo si lascia influenzare dalla emozione di qualche delitto particolarmente efferato. E oggi noi raccontiamo proprio un delitto efferato, una di quelle storie più controverse, ha fatto parlare il mondo intero, ha mobilitato l'opinione pubblica internazionale con campagne di solidarietà senza precedenti. Si è esposto anche il pontefice Giovanni Paolo II su questo caso, ed è una storia che ha fatto cambiare la legge dello Stato in cui è avvenuta, la storia di Paula Cooper. Il teatro degli avvenimenti è Gary, è una cittadina bagnata dal lago Michigan nello stato dell'Indiana, tra l'altro la città natale di Michael Jackson e dei suoi fratelli. Qui nasce Paula Cooper, nasce il 25 agosto del 69, una ragazza nera, poverissima, ed è un binomio che difficilmente porta a cose buone. Sarà lei stessa a fare un appello ai ragazzi neri e poveri come lei. Volevo dirvi che non vi rendete conto. Iniziate con dei piccoli crimini, spacciate droga, non vi cercate un lavoro, ve la spassate senza fare niente. Credete di essere dei fighi, ma non avete idea di cosa sia la prigione. La prigione ti toglie tutto. Nera, poverissima e qualcos'altro. Paula Cooper è abusata sessualmente fino dalla tenera età. Insomma, non c'è bisogno di essere uno psicologo consumato per capire che una persona così piccola, che vive un'esperienza tanto estrema, finisce per abituarsi alla violenza e ritenerla l'unico modo per rapportarsi agli altri. E questo è quello che accade anche a Paola e alle sue amiche, le ragazze del suo quartiere, della scuola che lei frequenta, che hanno tutte più o meno, se non la stessa storia, un vissuto comunque che le porta a propendere verso il crimine. Quindi si parte con i furtarelli, come ha detto lei prima nell'intervista, spaccio di droghe leggere, alcol, marijuana. Stiamo parlando di ragazzine che a 14-15 anni escono già di casa con infilato nello zaino di scuola un coltello da macellaio, perché non si sa mai. Arriviamo al 14 maggio 1985. Paola ha 15 anni e insieme a Dennis Thomas, che ha 14 anni, Karen Corder 16 e April Beverly 15 anni. Marinano la scuola, bevono, fumano marijuana e poi pensano bene di andare a fare visita alla loro insegnante di studi biblici, Ruth Pelke, che è una signora di 78 anni. La scusa è quella di chiedere chiarimenti su alcuni passi della Bibbia. In realtà hanno deciso di rapinarla. Ruth non se ne rende conto, apre alle ragazze. Una volta nel salotto, una di loro afferra un vaso, colpisce l'anziana che cade a terra. Paola estrae dallo zaino il suo coltello da macellaio, si mette a cavalcioni sull'esile corpo di Ruth e inizia a tempestarla di domande: dove tieni i soldi, dove nascondi l'oro? Lei si difende come può, dice che non ha contanti in casa. Paola non ci crede, la tortura le provoca ferite profonde sulle braccia col coltello. Intanto le ragazze e le altre cercano in giro. L'unica cosa che trovano sono $10 nella borsetta di Ruth. Non c'è niente da rubare in quella casa, la donna non è ricca, e a questo punto Paola perde il controllo. Avevo 15 anni e vi dico quello che avevo nella testa in quel momento. Io non posso proprio dirvelo. Non sono riuscita a capirlo. Ci provo a pensarci, a immaginarmelo, ma non ci riesco. Il cocktail è micidiale: alcol, droga e anni di violenza e di abusi. Così Paola Cooper fa quello di cui si pentirà amaramente per tutto il resto della sua vita, ma si pentirà solo poche ore più tardi già. Affonda una lama di 30 centimetri nel corpo esile di Ruth Pelke fino a 33 volte, con violenza inaudita. Pensate che si accanisce con tale forza che la lama del coltello attraversa più volte il torace dell'anziana e si conficca nel pavimento, come in una specie di incubo terribile. Le ragazze scappano, rubano i $10 e le chiavi della vecchia auto di Ruth, una Plymouth del 76. L'avvocato Jack Crawford, che rappresenta la pubblica accusa al processo di Paola Cooper, ricorda: era incredibile che quattro ragazze avessero potuto fare una cosa tanto orribile con così fredda cattiveria. Furono arrestate il giorno dopo e fu facile rintracciarle perché andavano in giro a vantarsi di averlo fatto. Quindi il processo non parte per stabilire o no una colpevolezza, su quello non esistono dubbi. Le ragazze raccontano per filo e per segno il loro atto terribile e il coinvolgimento di ciascuna è confermato dalle altre. Paola confessa senza riserve l'omicidio, anzi ammette perfino che, messa nelle stesse condizioni, probabilmente lo rifarebbe. Siamo nell'Indiana. L'Indiana è uno degli Stati Uniti nei quali è in vigore la pena di morte, ma in questo stato c'è una legge in più che consente di richiedere la pena capitale in casi particolarmente gravi anche per i minorenni dai 10 anni in su, e Paola di anni ne ha già, come dire, già 15. Raccontando la terribile storia di Paola Cooper e del suo omicidio commesso quando lei ha solo 15 anni. Stiamo raccontando di una vita nata già disastrata, di una violenza, e a questo punto siamo arrivati al processo. Siamo in uno stato in cui vige la pena di morte anche per i minori sopra i 10 anni. A questo aggiungerei che Paola Cooper era nera e poverissima, quindi deve accontentarsi degli avvocati di ufficio, e questo non fa sperare bene. E poi in quel paese e nell'Indiana il razzismo è ancora piuttosto determinante nell'opinione pubblica, e anche proprio in quella spinta di pensiero e di indignazione che può portarti verso la sedia elettrica. C'è un famoso detto americano che sintetizza molto bene il concetto sulla pena di morte: la pena capitale significa che quelli senza capitale si beccano la pena. E così per Paola Cooper non sembra ci siano speranze. Neanche lei sembra nutrire dubbi sulla fine che farà. Però a questo punto compare un personaggio che avrà un ruolo determinante nella vicenda, che apparentemente non dovrebbe avere incertezze sulla posizione da prendere, perché stiamo parlando di Bill Pelke, che è il nipote di Ruth, che quando la nonna viene assassinata ha 30 anni. Ed ecco il suo racconto. I had just gotten off work. I was at my girlfriend's house. Ero a casa della mia fidanzata quando ricevetti una telefonata da mio cognato. Mi disse: Bill, ho cattive notizie di nonna. È morta. Poi seppi che era stata uccisa con 33 coltellate da un gruppo di ragazzine. Voglio dire, erano bambine, ma avevano commesso un crimine terribile. Bill Belk è travolto da questa tragedia e è convinto al 100% che Paola, che ha confessato, debba prendersi le proprie responsabilità. In indiana si dice una vita per una vita, anche nel mondo arabo si dice così, per cui questo non vuol dire molto, insomma. Il processo si svolge l'anno successivo, appare tutto chiaro fin da subito. I difensori di Paola si concentrano sul passato, sulle violenze subite dal padre, sulla giovane età, cercano le attenuanti più o meno generiche, mentre l'accusa calca la mano sull'efferatezza del crimine, sulla violenza inaudita, sulla premeditazione. La sentenza arriva l'11 luglio 1986, è esemplare. April Beverly, 25 anni per rapina. Dennis Thomas, 35 anni per concorso in omicidio. Karen Corder, 60 anni per concorso in omicidio aggravato. Paola Cooper, ritenuta senza speranza di riabilitazione, viene condannata a morte. Il giornalista Furio Colombo, in una recente intervista, fa una sua valutazione del processo a Paola Cooper. Paola Cooper è stata la protagonista di un immenso stordimento, una di quelle tempeste che travolgono, che possono travolgere i giovani, i giovanissimi nell'adolescenza. Il frutto di questo stordimento è stato doppio, ha avuto due tempi altrettanto drammatici, altrettanto terribili. Il primo è stato il delitto che lei ha compiuto, il secondo è stata la pena che le è stata comminata. Ovviamente, come accade per i poveri e per i negri e i neri, e come accadeva specialmente allora, un delitto senza, un processo senza precauzioni, senza difesa, senza garanzie, dovuto anche al fatto della confessione, che è praticamente immediata e completa del delitto compiuto. Proprio questo atto, che altrimenti avrebbe potuto essere preso come un attenuante, si è invece fondata la giuria ispirandosi alla motivazione fondamentale della pena di morte in America: una vita si paga con una vita. Giudice James Kimbrough, nonostante si dichiari normalmente contrario alla pena di morte, condanna Paola Cooper alla sedia elettrica a causa della particolare violenza del suo delitto e la trasforma così nella donna più giovane detenuta in un braccio della morte in tutti gli Stati Uniti, unica minorenne. Viene rinchiusa nel braccio della morte dell'Indiana Women's Prison di Indianapolis. Il suo caso, durante tutto il processo, attrae l'attenzione dei media più di qualsiasi altro negli Stati Uniti, per molte ragioni: perché è una donna, perché ha solo 15 anni, per la ferocia dell'uccisione e per il contrasto tra lei nera e la vittima bianca. Ma nulla al confronto di quello che accade nel momento in cui Paola varca i cancelli della prigione dove dovrebbe essere attuata la sua condanna a morte. A quel punto i riflettori di tutto il mondo si accendono sul caso di Paola, come ricorda l'avvocato Jack Crawford, pubblica accusa al processo. A questo punto l'attenzione sul caso cambiò di segno. Non si parlò più di quanto orrendo fosse il crimine, ma del fatto che una ragazza di soli 16 anni fosse stata condannata a morte, del fatto che era solo la quarta donna in Indiana a finire nel braccio della morte e del fatto che, comunque, l'Indiana non aveva mai giustiziato nessuna donna. Il mondo comincia a schierarsi da una parte o dall'altra. Ci si domanda se una persona così giovane, con un passato così tormentato e sofferto, abbia effettivamente la consapevolezza del proprio gesto sia definitivamente irrecuperabile. Mentre la vicenda varca i confini degli Stati Uniti e il giovane volto di Paola, immortalato in una foto segnaletica, si fa conoscere sulle pagine dei giornali di tutta Europa, c'è qualcuno che comincia a porsi degli interrogativi. Quel qualcuno è Bill Pelke, il nipote di Ruth. Tra poco scopriremo il ruolo che avrà nella complessa vicenda di Paola Cooper. It's not the way that you say it when you do those things to me. It's more the way you really mean it when you tell me what will be. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di pena di morte, o meglio, attraverso la storia di Paola Cooper stiamo parlando di pena di morte. Paola Cooper è la quindicenne di Indianapolis che nel 1985 uccise con una ferocia incredibile una anziana insegnante di religione, Paola Cooper nera, l'insegnante bianca Ruth Pelke, e viene condannata alla pena capitale. Rea confessa, Paola non ha mai negato di avere compiuto, anzi devo dire che all'inizio ebbe anche una certa soddisfazione nel raccontarlo questo delitto, ma lei ha 15 anni e molti pensano che sia troppo giovane per subire una condanna senza via di scampo. Il caso diventa un evento mediatico, ne parlano tutti i telegiornali, tutti i media, gli opinionisti dicono la loro. Sentiamo ancora Furio Colombo. Da un lato una parte dell'opinione americana si mobilitava, si opponeva all'idea che una quindicenne potesse essere mandata a morte, ma non alla pena di morte, all'idea che una quindicenne potesse essere mandata a morte, cioè che si potesse uccidere un minorenne, una persona che dal punto di vista giuridico appariva incapace di prendere le proprie decisioni, di avere le proprie responsabilità. Dall'altra c'era, era maggioranza allora, è maggioranza molto minore, ma è maggioranza ancora adesso, quella parte dell'opinione pubblica americana che in ogni caso non esita, una vita contro una vita, dunque pena di morte. Quello che è successo in quel momento, in quell'istante, è stato che il grande evento si è sdoppiato. È diventato da una parte americano, nel senso che ho appena descritto, dall'altra europeo e italiano, principalmente italiano, nel senso che la parte più sensibile, più avanzata dell'opinione pubblica europea e della Chiesa Cattolica difendevano l'immaturità, la giovane età, l'impossibilità di condannare la persona giovane. Tra l'altro all'epoca la Corte Suprema degli Stati Uniti sta affrontando proprio il tema della incostituzionalità della condanna a morte sui minori e il caso di Paola Cooper pone l'accento su questa problematica. Amnesty International comincia a interessarsi del caso, 2 milioni di firme arrivano al governatore dell'Indiana Robert Orr, arrivano in tutto il mondo segnali in questo senso, anche dall'Italia, in particolare ci sono diverse associazioni che si schierano contro la pena di morte, Nessuno Tocchi Caino, la comunità di Sant'Egidio, perfino il Papa Giovanni Paolo II fa un appello perché l'esecuzione capitale di Paola Cooper venga annullata e venga abolita la pena capitale. La nuova evangelizzazione richiede ai discepoli di Cristo di essere incondizionatamente a favore della vita. La società moderna è in possesso dei mezzi per proteggersi, senza negare ai criminali la possibilità di redimersi. La pena di morte è crudele e non necessaria, e questo vale anche per colui che ha fatto molto del male. Quando si discute di pena di morte, una delle frecce all'arco dei favorevoli è quella di dire ai contrari: tu parli così, ma se capitasse a te, chissà cosa diresti, e se fossi coinvolto in prima persona. Bene, ciò che più di ogni altra cosa stupisce e crea scompiglio è proprio ciò che dichiara Bill Pelke, che è il nipote di Ruth, della donna assassinata. Quando fu letta la sentenza di condanna a morte, il nonno di Paola iniziò ad urlare nell'aula: «Uccideranno la mia bambina! Uccideranno la mia bambina!» E io pensai che il giudice avesse fatto solamente il suo dovere. Ma poi capì che quella sentenza non mi avrebbe restituito mia nonna. Iniziai a riflettere sulla sua vita. Iniziai a domandarmi perché? Perché il Signore aveva voluto riservare ad uno dei suoi angeli più preziosi una morte tanto orrenda? Doveva avere i suoi motivi. Sapevo che mia nonna non avrebbe mai voluto che il nonno della ragazza passasse quello che stavamo passando noi, perché le voleva bene. Pensare a lui che avrebbe vissuto sapendo che la nipote era stata uccisa sulla sedia elettrica era troppo doloroso. Iniziai a non pensare più a come mia nonna era morta, ma a come mia nonna era vissuta. How she died, the picture how she lived and what she stood for and what she believed in. Questo cambio di opinione da parte di Bill, questa abiura delle sue idee giustizialiste, almeno iniziali, lo portano addirittura a scrivere un libro, Journey of Hope. Fonda un'associazione che si occupa di promuovere l'abolizione della pena capitale nel mondo, e la mobilitazione così comincia a sortire il suo effetto. Nell'88 la Corte Suprema dichiara incostituzionale giustiziare chi al momento del reato ha meno di 16 anni. Nel 2002 l'età viene alzata a 18 anni. Insomma, la vicenda di Paula Cooper cambia la legge americana. Lei intanto è sempre rimasta nel braccio della morte in attesa che la sua condanna venisse eseguita. Vede la sua pena capitale trasformata in 60 anni di carcere. È il 3 luglio del 1989. Per 3 anni Paula ha pensato ogni giorno a quella sedia elettrica che la stava aspettando, che lei comunque giudicava un'ingiustizia. Nessuna di noi era innocente. È passato tanto tempo. E non lo dico per cercare di apparire meno cattiva o colpevole. Noi quella cosa l'abbiamo fatta in 4. Tutte e 4 eravamo colpevoli. Così Paola viene trasferita dal braccio della morte al Rockville Correctional Facility, che è un carcere di correzione sempre in Indiana, dove inizia il suo percorso di riabilitazione. Studia, prende la maturità, fa un corso per infermiera, poi si appassiona di cucina, così come racconta la sua tutor Sheila McKee. Paula ha preso la cosa molto sul serio e fa un ottimo lavoro. Noi forniamo sandwich e insalate e pranzi completi e lei se ne occupa ogni giorno. Ha una memoria fotografica e se uno, per esempio, non vuole la cipolla o un altro desidera una porzione in più di ketchup, lei se lo ricorda da una settimana all'altra. Anche se è stata condannata a 60 anni, che è quasi una condanna a vita, Paula ha una possibilità, perché la legge dell'Indiana stabilisce che per ogni giorno in cui il carcerato fa qualcosa di socialmente utile, gli viene scontato un giorno di pena. E lei sa che ogni pasto fornito con amore e professionalità in qualche modo può far ridurre la sua pena e può fare avvicinare il momento in cui potrà uscire dal carcere. Sto molto attenta a quello che faccio, perché la gente deve avere fiducia in te. Prende il cibo che tu gli dai. È la cosa più personale che possono fare. Prendere qualcosa dalle tue mani e sapere che è fatta nel migliore dei modi. Il mondo non passa da qui e non mi importa più di me. Troppi giorni chiusa ad aspettare che si allarga tutti gli anni di detenzione di Paula. Bill Pelk le scrive, la va a trovare molte volte in carcere, instaura con lei un rapporto basato sul perdono. Bisogna odiare il peccato, ma non il peccatore. Io lotto contro il peccato, ma non odio l'individuo. Amo le persone. Ma non mi scordo del primo uomo. Ho bevuto per non chiedergli perdono. E la redenzione di Paul appare evidente. In ogni sua dichiarazione la ragazza non perde occasione per parlare del suo futuro fuori dal carcere. Quando uscirò non mi interessa se devo pulire i pavimenti, lavare i piatti o cuocere hamburger. Prenderò quello che trovo. Quello che mi importa è dimostrare alla gente che mi merito una seconda occasione. Così il 17 giugno 2013, dopo 26 anni, 3 settimane e 3 giorni di prigione, all'età di 43 anni, Paula Cooper viene scarcerata. Lo Stato per legge le fornisce $75 e un vestito nuovo. Fuori dal Rockwell Correctional Facility a attenderla chi c'è? Bill Pelke, che la porta a fare shopping, le regala un computer con il quale la donna può iniziare a riprendere i contatti con il mondo. Paula Cooper è stata perdonata da tutti, dai parenti della vittima, dai credenti, perfino dal Papa, riabilitata dallo Stato, ha estinto il suo debito e ora può provare a vivere una vita nuova, da adulta libera, cosa che lei non ha mai fatto. Non ha mai pagato una bolletta, non ha mai avuto una vita privata, sentimentale, può ricominciare tutto da capo, ma evidentemente, se tutti l'hanno perdonata, è con se stessa che lei deve ancora fare i conti e con la sua coscienza. E a volte questi conti non tornano. Who was once the youngest death row inmate in Indiana committed suicide today in Indianapolis. Paula Cooper was convicted of the murder of the 1985 death of 78-year-old Bible school teacher Ruth Pelke inside her Gary home. Cooper was sentenced to death at 16 years old. La sua storia aveva commosso il mondo, aveva solo 15 anni Paula Cooper quando venne condannata alla sedia elettrica per aver ucciso un insegnante. Oggi la notizia del suo suicidio. Poco tempo fa, 27 maggio 2015, Paula Cooper viene trovata morta appena fuori dalla porta di casa sua con un colpo di pistola alla tempia. La pistola è lì, accanto al corpo senza vita della donna, con le sue impronte digitali sul grilletto. I titoli dei giornali, ve li immaginate, la ragazza che avrebbe dovuto morire non è riuscita a vivere, milioni di persone le avevano voluto salvare la vita ma lei se l'è tolta da sola, oppure disadattata senza possibilità di redenzione, non si scappa da se stessi, c'è perfino chi dubita si tratti di un suicidio, ipotizza un omicidio da parte di chi non è stato d'accordo sulla grazia accordatale. Noi abbiamo la fortuna di poter chiedere un'opinione a qualcuno che si occupa tutti i giorni di questi argomenti, una persona che io conosco bene, Sergio D'Elia, segretario di Nessuno Tocchi Caino. Sergio, ti ricordi cosa successe in quel periodo? Cioè voi come siete intervenuti, voi dell'associazione, sul caso Paula Cooper? A metà degli anni 80, in realtà, come gli ascoltatori sanno, Nessuno Tocchi Caino non era stato ancora costituito, però fu una campagna del Partito Radicale, sì, che fecero una straordinaria campagna di solidarietà internazionale alla quale prese parte, poi insomma, non perché fosse organizzato da noi, ma anche Giovanni Paolo II, sì, mosse per salvare la vita di questa ragazzina di colore che aveva allora 15 anni, fu salvata dalla condanna a morte e fu l'inizio di una riforma del sistema della giustizia penale, della pena di morte nei confronti dei minori, che poi 10 anni dopo, nel 2005, portò la Corte Suprema degli Stati Uniti a dichiarare incostituzionale la pena capitale per i minori di 18 anni. Si può dire che Nessuno Tocchi Caino è anche figlio di quella battaglia, cioè nato da battaglie come quella? Ma assolutamente sì, perché allora, nel metà anni 80, ma poi anche fino agli inizi degli anni 90, le mobilitazioni internazionali sulla pena di morte non erano sulla pena capitale in quanto tale, ma per tentare di salvare i vari detenuti di cui si veniva a conoscenza che erano, rischiavano l'esecuzione. Capitava spesso che erano soltanto detenuti nei bracci americani, perché gli Stati Uniti erano gli unici a dire al mondo quanti detenuti erano, come si chiamavano, quando era prevista la loro esecuzione, quindi ci si poteva mobilitare, e questa cosa a noi non andava bene, noi dovevamo tentare di salvarne non uno alla volta, ma tutti possibilmente attraverso una presa di posizione del mondo intero, la comunità internazionale, attraverso una risoluzione per una moratoria intanto delle esecuzioni capitali, che ottenemmo poi dopo quasi 15 anni di mobilitazione nel 2007 con quello storico voto che ci fu a New York al Palazzo di Vetro. Al Palazzo di Vetro, certo. Sergio D'Elia è una persona che mi ha aiutato a riflettere su certi temi, perché ci sono storie di persone che hanno fatto delle cose che hanno lasciato un segno, ma persone che hanno creato delle situazioni che hanno lasciato un segno nelle nostre vite, ed è il caso della controversa esistenza di Paola Cooper. Ha fatto cambiare la legge sulla pena di morte e in qualche modo ha fatto cambiare il costume di questo mondo. Se volete mandarci dei commenti o segnalarci altre vite, fatelo, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure veniteci a cercare su tutti i vari social. Se volete mi trovate. Ciao, a domani. Redemption songs, all I ever had. Redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.